Noi conosciamo bene questi giri, dopo li possiamo portare, no? Ieri siamo stati a trovare dei compagni che stavano al baretto di Val Preda, quello del Strage Abbia, compagni. Siamo entrati, ci ho detto, compagni. Volete fare questo Vernetti? Le coccarde? Mamma mia, dai, sono usciti con l'annosso. Nei momenti di grande depressione è il mate, ma lo fa bene, lo faccio bene, lo faccio bene, lo faccio bene, lo faccio bene, lo faccio bene, lo faccio bene, facciamo questo brindisi. Bravo, viva, viva. Che allegria questo. Stavo dai, fategli un grido di... Ti prego, Greca, fai qualcosa. Io ci ho detto, adesso non mi frega più un cazzo, perché oramai sta storia la conosco. Lei ha detto, no, ti giuro, è l'ultima volta, è finita. E quindi è brutta serata. Senti, ma Pietro chi è? Quello lì che dice a te? Quello che dice a te. A te, Agnes. Da, che ci sta questo piccolo grande. Navigando per il mare attraverso le rupi gemelle dell'oceano. Sei ora in una terra strana. Una accanto all'altra. Morti insieme, non ho sigarette. Le sigarette? Non c'ho sigarette. Avevo capito. Oltraggiata devi subire anche il bando da questa terra. Dov'è il rispetto dei giuramenti? Dov'è l'onore? In questa terra greca non resta più nulla. Tutto è volato via nell'aria. Ora padre e figlia... E tu, misera, non puoi più riparare nella casa paterna. Insieme alla disfunzione e ai sopravviventi, tali uomini vengono.